se è così fallo, ma cazzo che dai culo lo sia, se c'hai l'hai voluto, radio americana, 23 canali, qui e là, cazzo la vuoi media, ragazzi. Non so più cosa fare con te, Giampa, non so più che cosa fare, guarda, credimi che non so più che cosa fare. Sono mai andato a chiedere niente a nessuno e questo lo posso giurare su chi mi pare mi piace. Allora, ognuno poi è libero di esprimere il proprio parere, questo è un mio parere. Avanti qua. Ma io sono d'accordo o non sono d'accordo, capito? Perché non è esattamente così. Se uno una cosa te la regala perché ha il piacere di dartela, perché tu non ce l'hai, o perché ti fa piacere averla, non va bene che tu poi vai e te la vendi o la regali a un altro. Questo è un altro mio parere. Io sono fatto così. A me le cose che mi regalano diventano affettive e quindi me le tengo, come questo baracchino che sto modulando, che me ne hanno offerto di tutto e di più, e un regalo che mi ha fatto Pinuccetto, me lo tengo e non l'ho mai dato a nessuno. La stessa cosa è l'HB23, tutti lo vogliono, però non lo do perché è un regalo che mi ha fatto Gigi e ci tengo, poi tu sei libero di fare quello che vuoi, io non sono d'accordo. Nel modo più assoluto, le cose che si regalano, secondo il mio punto di vista, bisogna tenerle. Se poi uno ha una necessità, come è successo a Giampaolo, io gli ho dato un Turner più 2 perché abbiamo fatto delle cose, ma Giampaolo, ti ricordo che le cose tipo il Turner, tipo il Sears, non erano insieme a quello che abbiamo fatto noi, capito? Perché solo con l'Aran 48, solo con l'Aran 48, si è andato alla pari con la T250, solo con l'Aran 48. Questo per ricordartelo e non per rifacciartelo, per ricordartelo. In più ti è stato dato un altro baracchino dentro la scatola e gli hai fatto quello che hai voluto e va bene così. In più ti ho voluto regalare il Turner più 2 perché intanto io non lo uso, ne ho un altro. E il Sears, per fare un abbinamento di una cosa vecchia, antica, come sto usando io in questo momento, che tu hai sempre voluto, perché ti ho sempre sentito, ti sarebbe piaciuto averlo, l'avresti voluto, ce l'avevi, l'avevi dato, io ti ho messo in condizioni di riaverlo. E poi sentire un altro collega CB che sta usando delle cose che io ho regalato a te, le sta usando lui, io mi sento un po', capito? Non è che ti sto rifacendo niente, per carità, io sono pronto a rifarlo, non ho problemi, sono pronto a rifarlo, però stanno succedendo troppe di queste cose e non va bene, cioè bisogna anche capire che le cose regalate diventano affettive a differenza di Massimiliano che non gliene frega niente e quindi le fa quello che vuole. A me mi dà fastidio, capito? A me mi dà fastidio perché è così. Noi cambi i regali non li abbiamo fatto, ma sì, li abbiamo scambiato delle radio. Tu l'Uranus, io il Royce, tu mi hai fatto quello che hai voluto, io ne ho fatto quello che ho voluto. Se a differenza tu il Royce me l'avevi regalato senza che io tiravo niente, il Royce sarebbe stato qua, siccome era un'altra cosa, dove c'è stato uno scambio, dove praticamente è stato girato del denaro, diciamolo così, quindi ognuno le fa quello che vuole, tutto qua. Però per il resto non sono d'accordo, questo è il mio punto di vista. Nico, Nico, Brico, Brico, Brico. E va bene, il tuo punto di vista, mio, è un pochino diverso, io la penso così, perché ho già sentito troppi di questi cazzo di discorsi di merda, no, io ti regalo questo, io regalo quello, e questa cosa mi sta un pochettino alterando proprio le palle, detto in parole povere, proprio alterando le palle, che uno deve fare una cosa accanto alla gua dell'altro, perché sennò quello si offende, quello è geloso, quell'altro è così, quell'altro è così. Quindi adesso quando io devo fare qualsiasi tipo di operazione, nessuno saprà niente in radio. Andrò dalla persona interessata e farò tutto a quattro occhi. Perché non mi aspettavo alcuni pezzi da gente grande, più grande di me, che non va balle sotto, hai capito? Non c'ha coglioni sotto, detto sempre in parole povere. Comunque, ognuno, cioè perlomeno io, una volta che a me me la regalano, la cosa è la mia, la cosa è la mia, e secondo me, se a me mi serve una cosa, siccome tu me l'hai regalata una cosa, tu nel senso, io parlo tu, dai, in generale però, hai attenzione, io parlo sempre in generale, io se a me mi regalano una cosa, io divento il padrone di quella cosa lì, hai capito? Cioè non è che da voi tu mai ti rinfacciare, io ti ho regalato quello e tu te l'hai venduto, no? Se tu me l'hai regalato, vuol dire che me l'hai regalato con il cuore, l'hai fatto col cuore, ecco. Se a me poi mi serve un'altra cosa e io non so come ricambiarla, e do la cosa che mi hai regalato tu per ricambiare un'altra persona, uno non si deve offendere. Cioè questo qui è sempre ocra. Io dico a te, ma sto parlando in generale perché sono sicuro che c'è tanta gente in ascolto. Questo è sempre un mio parere personale, attenzione, senza offesa per nessuno. No, ma guarda che io non ce l'ho, non sono offeso, non sono adirato. Sto dicendo a Giampaolo quello che io ho sentito, perché l'altro giorno Gianluca mi ha chiesto un controllo, ho detto bella modulazione, cosa stai usando? Il tarne più 2, perché lo sapevo che gli avevo dato, ho capito. E mi ha detto sì, sto usando il tarne più 2 col Sears. E io gli ho risposto, c'era anche Giampaolo quella radio, chi te l'ha data? E lui mi ha detto me l'ha data Giampaolo. Ci sono un po' rimasto male. Non sto rinfacciando a Giampaolo, per carità, quello che lui fa e quello che deve fare con la sua roba. Ognuno libero di fare quello che vuole, io non sto rinfacciando niente a nessuno, per carità. Se poi altra gente fa questo, non è un mio problema. A me dà solo fastidio quando le cose tra di noi ce le regaliamo, non c'è uno cazzo che si tenga un pezzo a dire ecco sto usando questo che mi ha regalato Claudio, questo mi ha regalato Massimiliano. Nuda, siamo tutti uno peggio dell'altro, non è una cosa singola Massimiliano, per carità. Io questo ce l'ho, me lo tengo, non lo do a nessuno perché conosco molto bene a Pinocchetto e se sa che l'ho dato si offende e mi dispiace perdere l'amicizia per una radio, per una cosa che non va bene, per me non va bene, punto. Poi se io do le cose gli altri si difendono o li regalano, pazienza, vuol dire che funziona così, io non le faccio funzionare così, tutto qua, vabbè. Comunque era solo un'affermazione, Giampaolo, per carità. Poi ti ripeto, sei libero di fare quello che vuoi, con la tua testa, con i tuoi soldi, con la tua voglia di fare, io non ho da che mettermi in mezzo su queste cose. Una cosa è certa, che da parte mia, con questi ultimi periodi che stanno nuovamente succedendo un po' di cosettine, siccome me ne voglio stare fuori, da parte mia non ho da che mettermi in mezzo ai cazzi di nessuno, questo sia ben chiaro. No, riprendo io voglio Cla, attenzione che io cioè stavamo parlando, siamo noi tre qua, sto parlando con te, ma è come che sto parlando in generale, attenzione, no? Senza offesa, senza anche tu Giampaolo, senza offesa per nessuno. Questo mio discorso, siccome siamo noi tre, vale per tutti, non è che vale per tutti, io parlo in generale. Sicuramente la radio là, è diventato non uno svago, una risata, una cosa, è diventato un affarratorio. Cazzo, uno per l'altro, cioè, ma cosa cambia se quella una radio cazzo che c'ho io la sto usando io e invece magari doveva stare in un'altra casa e la usa quello? Ma non ci conosciamo tutti, siamo tutti persone grandi, cioè le cose stanno girando tra di noi, non è che ce le stiamo mandando cazzo in casino in tribogna, la radio stanno girando, siamo cazzo 7, 8, 10 amici, la radio stanno girando tra di noi, non è che le stiamo dando a uno che non conosciamo, hai capito Claudio, quel discorso che ti voglio fare? Cioè, se tu la radio a me me l'hai data, se tu a me la radio me l'hai data, e io l'ho data a un'altra persona che entra in frequenza, è amico sia mio che tuo, cioè la radio è in buone mani, cioè nel senso la sta usando per farsi una chiacchierata, è tra di noi, è quello che ti voglio spiegare, capito Claudio? Non è, cioè senza fraintesa e attenzione. Right. discorsi così in questo contesto. Preferisco parlarne di persona delle cose nostre, però sto dicendo, non ti nego che ci sono rimasto male, tutto qua, punto. Poi, per l'altra radio, quell'altra cosa che hai fatto, hanno condannato anche a me, capito? Senza però sapere qualcuno che l'ha riparata, che quella radio è stata comprata da lui, non da me, perché l'ho comprata da lui, anzi, lui l'ha comprata personalmente, l'ha data a Gigi, da Gigi è venuta qua. Ed è risultato che c'era un praticamente un falso contatto nella scheda LC dove hanno inserito un relè. Io non ho inserito nessun relè perché quella radio io il giorno che l'ho aperta, che l'ho presa da Gigi, l'ho portata a casa, l'ho aperta, ho sollevato il watt e basta. È il trimerino che sollevo sempre a tutti i 140, basta, ho fatto una prova sul coperchio, non mi sono accorto manco della modifica che era stata fatta, quindi alla fine l'ha condannata a me che l'ha giubbatticiata, per dirti no, perché le persone sono buone a parlare, ma non sono buone a capire i risultati della situazione. Quindi alla fin fine, siccome io sto nuovamente entrando qua in 27, non voglio ricadere nel tranello di quello che succedeva negli anni passati o nei mesi passati, ok, allora a me lasciatemi fuori a qualsiasi cosa, siete tutti liberi di comprare, disfare, l'importante a me non mi tribunite in mezzo alle balle, perché se devo dire una cosa, la dico a te personalmente che sei interessato, a Massimiliano che l'è interessato, io non so che cosa avete scambiato, non so niente, chi ve l'ha data, con chi l'avete fatto, sto cercando di capire, anzi a quanto ho capito, c'è una terza persona tra di voi, a me non me ne futti nulla, ma proprio zero, zero. È una cosa che io ho detto a te, è intervenuto Massimiliano, il discorso era su di te, ci sono rimasto male perché era a Torsers, a Gianluca, punto. Non è che ti sto dicendo niente. Pazienza, è andata così, non ci sono problemi, chiuso il discorso. Niente con nessuno, ma proprio zero spaccato. Hai capito, Cla? Io non c'ho nulla, non è un discorso diretto a te, non è un discorso diretto a nessuno, è un discorso che sto facendo in generale. Hai capito, no? La radio sta diventando uno schifo, non divertimento, Cla. Ti usai, no? Non c'è problema, ti preoccupi uno. E io Massimiliano, ma ribadisco che questa è una cosa, non come hai detto tu in generale, questa è una cosa diretta tra me e Giampaolo, punto. Tu non c'entri niente, io non sto parlando al plurale, sto parlando al singolare, mi sono rivolto a Giampaolo e Giampaolo mi ha risposto, finito il discorso. Poi ripeto, a me degli altri, di quello che fanno gli altri, non mi interessa, la stessa cosa di fare tu. Se poi tu c'hai un altro discorso diretto con qualcuno, allora Massimiliano non so cosa dirti, io non ne ho. Diretto con nessuno, è una cosa che io con Giampaolo abbiamo già affrontato altre volte e basta, gli ho detto quello che pensavo, punto, ma si è finita qua, è una cosa rivolta a Giampaolo, non agli altri, ma agli altri non mi frega niente. Io quando devo dare una cosa la do e basta, si finisce lì, ma questa è una cosa tra me e Giampaolo, punto. Non è che io mi sto rivolgendo a terzi, no, io mi sono rivolto a Giampaolo e Giampaolo mi ha risposto, poi tu hai detto la tua opinione e mi sta anche bene, assolutamente. Poi ripeto Massimiliano, la radio è fatta anche per queste cose, per scambi di opinioni, scambi di cose, però quando poi le cose iniziano a diventare pesanti, a quanto sto capendo, penso e credo, non lo so se mi sto sbagliando, che ci sia qualche altra cosa anche sotto, perché a quanto mi stai dicendo tu, vuol dire che c'è qualche altra cosa sotto, ma io non sono al corrente, non mi interessa. Però dico, cerchiamo di darci una calmata, giusto anche come hai detto tu, che le radio girano tra di noi, ma quando poi girano tra di noi e viene accusato o ti telefonano e ti dicono ma tu hai fatto questa cagata, a me, io cagata non ne ho mai fatta alle radio, forse sono l'unico CB e radioamatore che non ha mai aperto una radio, mai la cagata, anzi mi incazzo quando le persone si mettono a toccare, tu lo sai benissimo che non sanno manco dove stanno mettendo le mani, perché l'ho sempre dimostrato in radio e mi sono sempre attaccato con tutti. Quindi sentirmi dire queste cose rimango ancora un po' più perplesso, che la gente ancora non ha capito niente di qual è il vero risultato di una radio, qual è il vero risultato di un operatore radio, perché non basta avere radio e poi non saperlo usare, basta anche non avere niente, un semplice baracchino del cazzo e fare questo lo stesso, Massimiliano, capito? Senza nessun vanto e senza nessuna prosopopea, io c'ho questo, io c'ho quell'altro, a me non me la futti nulla di quello che c'hanno gli altri. Io ho sempre guardato me e anche gli altri a volte, sempre consigliato a tutti, però cerchiamo giustamente, come hai detto tu, di darci una calmata, se dobbiamo far girare radio, farle girare tra di noi, ma con onestà, capito? E sincerità soprattutto, Massimiliano, perché quando una cosa poi la nascondi, o vai a dire, ma non dire niente qui e là, visto che tu sei andato a comprare, ero il primo che anda a dirlo, Massimiliano. E invece quando uno è sincero dice no, io l'ho presa la Massimiliano, ho fatto cambio Massimiliano, anche nulla direi a te, non ti devo nulla, non credo un problema. Sì, appunto per quello, no? Mi sembra che l'altro giorno ci siamo sentiti per telefono, e te l'ho detto tranquillamente, claro, quindi non c'è bisogno di stare lì a cosa. No, perché sai cosa è, Ocla? Che la gente sembra gelosa, mi hai capito quello che ti voglio dire? La gente sembra gelosa perché quello ha fatto cambio con quello, quell'altro ha fatto cambio con quello, quello si è preso la cosa di quello. Cazzo, pare che si furendi. Cazzo, ma io in casa mia non devo nulla a nessuno, mi. Cazzo, di buffi, mi ripago. Se a me mi piace una cosa, ecco il corrispondente, faccio scambio di quella cosa, a lui le piace quella, a me piace quella, ma perché non lo devo fare? Cioè, no, i gusti poi sono personali, si sa, no? Cazzo, come te che io dico, ti regalo questo microfono, a me mi piace lo 140, magari è un microfono da 50 euro e tu mi stai dando una radio da 400 euro. Cioè, non vedo il problema della gente perché deve criticarti anche queste cose, capito? Il discorso mio qual è? Ecco, tutto lì. Cioè, non è successo niente, attenzione, stiamo facendo un piccolo discorso così, là, tra di noi. Ma comunque io a te l'altro giorno ti l'ha giudito al telefono, già te lo ricordi. Brico, brico, brico, brico, brico. Ma non è Abrecco, vabbè. Anzi, ti faccio mente. Sì, sì, ma tu lo sai che con me no, non ci siamo mai nascosti niente. Prima di fare le cose lo sappiamo io e tu, ma mi sono permesso anche di darti un input, ad esempio, sul Galaxy di Gianni, che insomma era una radio buona, quale io non l'ho mai vista, ma per come la descriveva lui era una radio buonissima, era una radio buona. Poi se tu hai fatto un cambio con Giampaolo, io non ti ho detto niente, ti ho espresso il mio parere, ho detto ma io l'ho avuto al Magnum, non è una radio che a me interessava, non mi piace, non mi segue, hai fatto male, magari te la fa, no, io non mi permetto di certe cose, te la posso dire di persona che sei un capo di bugnetta, ma alla radio non te lo dico, capito? Però per me, e io esprimo sempre il mio parere, no? Come quando hai fatto il cambio ti ho detto cazzo la sceglia, io avrei preferito il Galaxy Saturn Eco al Magnum, perché l'ho avuto e sì, bellissima radio, funzionante, però quella là mi piaceva di più, dava più all'occhio, eccetera. Questa è un mio giudizio, insomma, è quello che si fa, che facciamo tutti, ma sicuramente Carlo Spaviero non è geloso di nessuno, perché grazie a Dio le radio ce le ho, non mi manca niente, non ho bisogno che nessuno mi regali niente, sento offesa per nessuno, non me lo devo domandare da nessuno, come ti hai detto tu, no? Le radio me le compro con i soldi miei, se devo cambiarle sono le mie, quindi le faccio girare perché mi va di cambiarle. Io adesso ad esempio, per sapere, in modo che se qualcuno lo vede su eBay, ho messo in vendita l'850 perché mi ho preso il 940, ecco, qua lo dico e qua lo nego, perché si vede che è nella mia stazione l'850 e quindi ve lo sto dicendo, ho messo in vendita l'850 perché mi è capitata l'occasione di un 940, mi piace molto di più, è analogico, l'ho avuto e me lo sto riprendendo, anzi me l'ho già preso, e quindi ho messo in vendita l'850 per recuperare i quattrini, tutto lì, ma sono cose che facciamo perché ci piace farle, non di certo come qualcuno nei tempi passati è andato a dire a determinate persone, che tu Massimiliano sia al corrente, che Claudio Spaviero lasciava indietro la famiglia perché doveva comprare il radio, capito? Quello è una cosa che non va bene, ma non va bene per tutti noi, non solo per Claudio Spaviero che è un amante delle radio, non va bene per nessuno, ognuno deve pensare alla sua tasca, ognuno deve pensare alla sua famiglia, ognuno deve pensare a farsi i catti suoi, punto, e lasciare la gelosia fuori, ma molto lontano, perché altrimenti così non si va avanti. Se fosse qualcuno in ascolto, Claudio Rosario. Diceva quello, capito Massimiliano? Io ribadisco dico sempre che a casa mia sono libero di fare il cazzo a me pare mi piace, con le radio, con i miei soldi e con tutto quello che mi pare mi piace, perché io non vado a casa di nessuno né a controllare né a chiedere niente né a fare niente. Quindi ognuno impara a farsi i cazzi suoi e boh, capito? Le radio che usiamo sono nostre, è un hobby, io sono libero di dare a chi mi pare mi piace e fare quello che mi pare mi piace con le radio. Posso anche mangiarmi un panino perché domani devo spendere 600 euro perché mi arriva 940. Domani, dico domani, non è domani, comunque la prossima settimana. Perciò tutta la settimana sono a dieta perché non c'ho niente a mangiare a casa mia. Capito? Sono cazzi miei, alla niente, non mi ha fatti nuda. Capito Massimiliano? Comunque, chiuso il discorso. Vabbè, comunque, se c'è qualcuno che interessa l'850 mio, su eBay in vendita, ci sono le foto, la radio nuovissima, eccetera, eccetera. Il prezzo è di 600 euro perché è il suo valore, chi la vuole la compra, chi non la vuole la lascia stare lì, non mi sta chiedendo niente. Finita l'atta, la ritiro e mi tengo buruchissa e mi dice in tutti i canti dal guru, beanda. E a me sembra più capo di bognetta. Ma tu domani mattina la macchina ce l'hai? Sì. Che chi va? Dopo la radio. Già ci vediamo domani mattina, dai. Già ci vediamo. Anche lì poi c'è un discorso, no? Che quando ci vediamo approfondiamo bene in riferimento a quelle due cose che ti ho accennato l'altro giorno. Sì, Giampa, ma lascia perdere, ti ho detto che prima di, perché noi abbiamo già avuto in 40 anni che ci conosciamo, forse anche di più, perché abbiamo la stessa età, che siamo andati in Parigi, Budì, no? Che io mangiavo a casa tua quando ero a scuola, alle medie, in Viale delle Vigne, quindi avevamo la stessa età, mi pare 15 o 16 anni, ne avevamo 50 e via, perciò fai tu due calcoli. Perciò prima di avere un contatto diretto con te, nel senso perdere l'amicizia, io la radio, ma non la radio la prendo e la butto dalla finestra, capito? Perché non è un discorso che si può fare, perdere l'amicizia per un hobby che abbiamo da ragazzini, perlomeno io e tu, e anche Massimiliano sicuramente, ma io e tu in particolare, che eravamo proprio ragazzini quando siamo entrati in radio a Polottone. Perciò mi dà solamente fastidio sentire una cosa del genere. Non ti nego, e ti ribadisco che non ti nego, che ci sono rimasto un po' male. Perché pensavo che era per te quella diventata una cosa affettiva, visto che era un regalo fatto da me, che ti è sempre piaciuto, che qui e che là. Punto e basta, finito, quello che ti volevo dire, io te l'ho detto. Ma gli altri discorsi che abbiamo allungato sono riferiti ad altre persone, capito, che sentono, guardano e poi vanno a dire cose che non sono assolutamente vere. E queste sono cose che devono finire in questo hobby che abbiamo, perché altrimenti non va più avanti nessuno. Ma il significato vero e proprio della mancanza di cibi a Sassari è proprio perché siamo caduti in un mondo leggermente tutti quanti, capito? Brecco, avanti, brecco, buonasera. Brecco, buonasera, tutta la rotta circolari. Allora, io stavo ascoltando, come sempre, faccio l'abitudine, faccio l'ascoltone, ma non voglio intromettermi nei fatti degli altri. Ognuno ha fatto il favore, se vuoi uscire con i montani cagati, vuoi uscire pure con i montani cagati. Claudio, io te la faccio, ma non poco, no. Ma sei canto, quindi la velocità, la voce torna a Sassari. Ecco, altro risultato esplosivo, che è quello di Sandro, che siamo conosciuti in un contesto molto lungo e soprattutto con tantissime difficoltà per l'inizio di questo cammino alla 27. E Sandro sa benissimo di cosa sto parlando. C'è sempre stato, hanno continuato ad esserci le mali lingue, le mali di tutto e di più. Però ripeto, ribadisco che se questa cosa non va un pochino a mettersi a tacere, e non andiamo più avanti, non andiamo più avanti nessuno, e dico nessuno e sottolineo nessuno, ognuno è libero di fare quello che le pare e le piace, con i propri soldi, con la propria famiglia, con i propri hobby, capito? Ognuno è libero di comprare quello che le pare e piace e scambiare quello che le pare e piace. L'importante è che tra di noi ci sia solo sincerità e solo sincerità, punto e basta. Ok, purtroppo caro Claudio Sparviero, nella 27 manca questo piccolo puntino di domanda, capito? Manca questo puntino di domanda, ma non da oggi, da anni addietro. Io vorrei sapere, che ho sempre cercato di capire, di macinarmi la testa fino a un certo punto, poi logicamente non me lo sono più macinata, ok? Che cosa induce ad essere gelosi, ad sapere, ad cercare di andare a scavare sulla vita privata, su questo, su quell'altro di ognuna singola persona? Sinceramente a me personalmente mai e poi mai mi è interessato, perché non mi ha portato nessun ricavo, ok? Quando mi sono seduto a tavola ho sempre mangiato con quello che mi sono ricavato, grazie a Dio, ok? Tutto lì, quindi non ne vale la pena, si potrebbe creare una bella armonia, si potrebbe creare tante cose reciprocamente e quant'altro. Vito Claudio? D'accordo sono io, capito caro Sandro, io sono pienamente d'accordo, però ripeto sempre quello che ho detto poco fa, un po' più di sincerità nelle cose. Qualcuno parla di radio, di queste cose, accusandosi lui stesso di coerenza, di quello e di quell'altro, ma per favore, ma finiamola davvero, riprende Massimiliano. Beh, positivo, claro. Guarda, io sono d'accordo di tutti questi discorsi che state facendo. Tu lo sai benissimo che a me, ripeto, se una cosa privata di famiglia me la vuoi dire, me la dici, perché io sono tuo amico e me la dici quando ci troviamo di persona. Certo, io non vado a infliggere qua in radio in 27 a dire i cazzi miei all'altra gente che non gliene frega niente della mia famiglia. E ribadisco, e spero sempre che chiunque fosse in radio non parli della mia famiglia, perché io parlo della mia e di ognuno della nostra, che non gliene frega niente. In radio si entra per ridere, per scherzare, per passare un paio d'ore. Poi dalla parte privata ognuno è libero di farsi i cazzi brutti. Tutto qua. Te la appoggio, va. Questa volta te la appoggio io, visto che Sandro l'ha appoggiata a me. Ehi, se ti fidi. Vedi qua, poi alla fine il risultato della radio cosa ne nasce fuori, l'ho visto, che bisogna fare sempre discussioni, perché la radio è una discussione, cazzo, tutti gli dici, cioè arrivare a dire le cose personali, cazzo, beh, cioè, ma dove stiamo arrivando, dai. Se la vuoi vendere, la devi vendere col prezzo che si deve vendere. non la devi regalare, perché questo è il risultato, capito? L'importante è non farci prendere per il culo, i regali ce li facciamo, le cose che costano e che le abbiamo comprate con i soldi, se uno le deve vendere per recuperare i soldi, non per farci belli a fare un guru, punto. Sono solo, perché io delle volte quando sono in radio qui essere anche una cosettina, hai capito? Quindi fa sempre piacere, lo sai, Babbo Natale in gamba. Adesso mi sto ascoltando. Va bene signore, dai, vabbè, tanto è inutile. Tanto è inutile, signori cari, l'importante è che ognuno reagisca come meglio crede nella propria vita, da voi, ripeto a dire, ognuno è liberissimo. È liberissimo di reagire come meglio crede, da voi. L'importante è avere la coscienza bella pulita. Il mattino quando salta la soglia di casa, che sia sempre a testa alta. L'importante è quello lì, da voi, Maurizio. Ciccia. Ehi, a positivo. Te l'appoggio, te la spingo, te l'incascio. Avanti, Giampaolo. Ciao Gianlu, ti saluto, se mi ascolti ti saluto, con la buonasera. Da positivo, ciao Gianlu, buonasera, un attimo per me, QTH piccolo, avanti qua. Ehi, va bene, aspetta che abbasso un po' il radio qua, che a volte non c'è nessuno, a volte c'è tutti quanti ciamendi e senza risposta. Va bene, ecco lì, Gianluca, adesso te lo metto io a te il nominativo. Va bene, stai attento Giampaolo, non darle niente a Gianluca, capi? Non darle niente. Manda a tiro. Cosa c'hai in Chivo a far vedere così due? Manda a tiro. Scatola, ma non sorpreso il 940 che mi piace di più, è più selettivo di quello, una radio più tastata, più spremuta, molto più bella, molto più grande, molto più selettiva in tutto e per tutto, capito? Ecco, quella è una cosa che si può fare. Estéticamente quant'altro va anche bene. Dalle 900, sarà più o meno la pari, fate il conto, 380 euro di S9, 602 euro di 908, anzi forse qualcosina in più, però 100 euro va bene perché è fotografiato. Cazzo, siamo a 480 euro. No, sei fuori binario, Massimiliano, dai, sei fuori binario, no, non è accettabile. Non è accettabile uno scambio del genere, dai, almeno da parte mia, no. Aspettiamo Natale, dai, niente di strano che dopo Natale, magari quest'anno sia un po' più generoso, dai. Vabbè, ti do anche una busta di limone dall'albero, va. Grazie. Chi è di avere si già fa? Aspetta, le mani te ne possono accanto come voi. Isso senza ombra di dubbio. Che sono desiderato di usarlo. Grazie. Lui limone mi zecca. E da quella limone che vai, proviamo. Cazzo, non erano ancora buttati quegli altri, no? Diciamo là, abbiamo dato una bella chiamata ai potatori e dato una bella portata a quegli alberi. Adesso vediamo quest'anno il frutto che punta fuori, dai, figurati, ci sono tre euro, Massimiliano, lì è dove ti sto parlando, lì dove avete fatto un posto con tuo padre, lì ci sono tre alberi di ciliegie, guarda che sono allucinanti. Due alberi di limoni che sono carichi a più andare, ma sono limoni non trattati, Poi ci sono alberi di frutta di tutti i colori, quindi bisogna dei limoni di qua lì. No, va bene, era per aggiungere al peso, dai, al microfono, che hai capito, sa. Sì, va bene, dai. Va bene, signori, io mi abbandono. Se coincide in serata, se no ce la risentiamo alle prossime. Fatevi un buon proseguo di serata, con tutto. Grazie di Pechini, Gianaiti e gli ascoltori. Ciao a tutti, va bene qua. Ok, sa, no, ma era un discorso abbastanza preciso. È puntato su quello che è praticamente singhiozzo. È praticamente quello che stavamo parlando, insomma, però abbiamo puntato sul singolo un pochino, perché a volte le parole dette male pesano tantissimo e soprattutto incidono poi in chiaramente, come è già successo nel passato. Tutto qua. Ok, ciao, buona serata, un abbraccio a te famiglia e ci sentiamo più tardi. Vai Massimiliano. Ehi, ma t'hai unito la famiglia non ti calla. Dai, ciao Sandro, buona serata a te Correa, dai, ci sentiamo le prossime, avanti Gianpa. E chi Correa lo giallo di famiglia? Ma che non te lo leggi un codice Q? Capo di mugnetta, ragazzi. Cioè io mi sono espresso in gergo monofase e tu invece sei scelto subito con la logica QRA. Ma ci mi ricordo, tu ero QRA. Allora sei sano, eh? Oi, tante cose, là. Vai Sandro. Vai Sandro, vai, porta il campisciare. Allora, l'hai mai visto che Alessandro? Ma grande tracco va un carruzzo, che si manopatti, lo puoi cennando e tu cammina da giorno, ti diciamo schetti boh. Lo schetti. Ascolta, invece Giampa, nuvolina com'è? Che c'è la nuvolina? Compreso che mandava già recato lontana Giampa. Oh, sarai a Culia di Biscio allora. La santa è bella, grazie, la vedi, è un battuffo, è bella. Oh, Giampa, cazzo non mi hai detto niente che c'hai con Giugio. Bene, Gianluca. figli. Yup deve imparare anche a sentire l'odore della strada e farla sempre sempre in un punto, non è che la vuoi abituare a pisciare dentro. Bisogna che collare, senza collare, mi l'imbarazzo la pure intera vicino a Reiana pure, che deve rovinare lì, lì già si fa il suo posto, e ogni volta che la porti i piscianchivi, compreso hai, anche senza collare, io il mio non va via nemmeno 3 mesi, lo portavo giù, era piccolino, e i primi giorni ho fatto a nudo, lo portavo sopra e pisciavano da petto, così è, allora d'ora, ci provavo, alla fine ho iniziato a farla fuori. Date minore da minore, pare già un coso, un labrador. Cos'è Massimiliano? Chihuahua? No, è un Yorkshire incrociato, diciamo, con il padre, un Yorkshire incrociato, là. Qua è nata questa qua, bianca, così. Ma classe, ma vedi gatto, è troppo bella, va. Sembra un labrador piccolino. E tu potete vedere un labrador in fotografia. Si vede che c'è bambino Ienaro. Ma un anno e pesa 73 cucchini. Poi di chi si mette, come si chiama? Un presa canario. Cioè, tipo il cane corso. Ah, boh. Già lo conosco, lo conosco. Perché era uno, questa ragazza qua di fronte, che abita qua di fronte da me, e pesa un'ottantina di chili, un maccio, un gatto, è un mostro. Ma sai quanto è bravo, Massimiliano? Guarda, a me mi ha visto poche volte perché sta sempre a casa, poi vabbè, si sbide, come lo porta fuori, non ha manco musarola, perché in tutto il quartiere, cioè, lui deve giocare con tutti, bambini, grandi, vecchi, di tutti. Il problema è se ti salta addosso, cazzo, se ti salta addosso è una cosa allucinante, non lo mantieni. Ma l'anchi, boh, canti un piantone, canti un palo da 2 bollici, è allucinante, le zampe, la testa devi vedere. Io secondo me è più grande la testa è più piccola la testa del San Bernardo di Sugan. Un mostro, tutto muscoli. Guarda, è una cosa allucinante da vedere, ma come hai visto un cane così grande? Sì, sì, qua, un bel grande, però mangia troppo, gatto, avevo una cosa per sapere. No, Mario, mangia una volta solo, bene, abbondante, però lo da mangiare una volta solo, guarda, ti giuro che è tutto muscoli, corre, ma lui, tu immaginati, adesso, oggi no, perché Mario non stava lavorando, domani che domenica, all'otto è già in spiaggia. In tutta la Davis, vamos, a Platamona si va da Marina di Giusso fino a Randone, sempre correndo l'età del lugar. Ma è una cosa pazzesca. Mamma mia, grande maduro. Sì, sono un bel grande come cane. Tanto ti salta un addosso. Ma sì, un attimo che c'è mia figlia. Riprendi già qua. Fai, già siamo qua. No, un secondino solo, mi allontano che cazzo c'è Gaia che non sta tanto bene, mi sta chiamando. Aspetta un secondo. Ehi, a te lo fai, già sono qua. Ma visiti, sì. Ehi, io sono qua, io sono sul tappo con la sedia, ho acceso qui. Io vi adesso vi lascio che vado in farmacia a prendere 2 medicine per Gaia, se non sta bene. Poi passo a prendere 2 cosettine e poi già siamo di nuovo qua, là. Va bene, mi metto un ascolto sul canale 12 allora, già bene, passo sul 12 in ascolto, ok? Ma fa anche a te là, ciao Claudio, niente dai, ci sentiamo dopo, quando appena rientro nel canale 12, dai, ciao anche a te Gianluca, so che sei lì in ascolto, vi saluto a tutti, dai, buona serata e buona continuazione.